ciao ciao. Bianco per me. Ciao a tutti. No, no, uno per volta, non tutti assieme. Le 8:20 sono, per carità. Ecco perché c'avevo fame. Ma gira gira, mi faccio un caffè e poi me ne vado a letto. Alla faccia vostra. Ciao ciao Luigi, buona cena. Sono proprio a rassicurare anch'io, ciao. Ciao ciao ciao, buona idea il caffè. Buona ruminata a tutti per chi deve cenare, buona caffeinizzazione per chi si deve caffeinizzare. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, buono quel caffè, eh? Dovevo mangiare. Ciao anche a Gianni. Marco, ciao. Ciao Concetta, ben sentita. Sì, Natalini, era familiare anche quel sapore, vedi, costa poco e rende molto. Non c'è bisogno di pigliare la bazza oro oppure quel caffè Borbone che francamente a me non mi è piaciuto. L'avevo preso in capsule, ma c'ha piacere ai napoletani, ma a me non piace, boh. Oh, quello lì è buono, fa un cappuccino quella macchina che guarda, manca al bar. Eia, Natalì, io stacco, poi mi dici se quella cosa a due funziona, ciao. Sì, sì, funziona, funziona. Gaba, gaba. Ci sentiamo, QRT anche per me causa caffeina. Ciao a tutti. Ciao a tu. Ciao a tu, grande righetta. Sentite lei alla 50. Aspetta, sto tentando di togliere il bip da menù. Qua è tutto menù, sotto menù, fai una buona. E tu perché metti il pipiriolo? Ciao Marco, che bellino. Beh, magari, sai cos'è, in DX se in banda laterale lo puoi usare, però su Luigi il 27 penso che alla lunga, sai, nei passaggi uno dopo l'altro sia stancante. No, no, no, già è simpatico. Questo è l'altro, fa blu. Questo non è male, il mio sembra una scorreggina invece se lo metto, ne ha solo uno di tono. E il mio com'è il tono, Carlo? Il tuo è il bip classico. Non ce n'è come il tuo bindata. Sì, quello è così. Gianni mi ha lasciato il Galaxy Saturn Echo. Vediamo, non me lo ascoltavo, Mamma mia che strano che è. Ascolta, beh, ti piace il Galaxy, quello è bello, il Saturn Echo è molto molto bello, un po' ingombrante però, insomma, riempie la vista e anche il tavolino. Da mettere a posto però, eh. Ah, è quello che ha dato problemi a lui. Esatto. Il finale suo, originale, e vedrai che lo metti a posto. Quello va dato a chi lo sa fare, capisci, l'ho preso per quello, poi vediamo un po' in quanto tempo ci vuole. Guarda, te ne accorgi anche dalla forma del finale, da come sono disegnate le sigle sulla parte plastica, per esempio i 1969 li riconosci proprio dalla forma, poi devono essere mi pare Mitsubishi o roba del genere. Quelli cinesi si vede che sono falsissimi, e anziché darti che c'ho 4 watt te ne dà 1,5-2 quando ti va bene, se no te ne dà 0,5 watt pure. Vabbè, io stacco definitivamente, ciao Carlo, vado a pigliarmi il caffè, ciao, non riprendo, ciao. Allora sto venendo, carissimo. Come è andata lì? Allora sto arrivando, se stai facendo il caffè arrivo. Io però che sono mandrone, me lo faccio in capsule, così metti la capsula, non devi lavare niente, non devi fare niente. Ah oh no, meglio il mio, meglio il mio, meglio niente. No, no, è buono, e ti garantisco che è buono. Non è di marca, ma è buono. Vabbè, sicuramente chiederò. Vabbè Marco, dai, ci sentiamo alle prossime. Saluti dalla 50. Ciao Marco. QRT per me, dai. Ciao Marco e ciao Natalino, alle prossime. Chi è che chiama Canale 10? Basso, sì, ti copre quella... come si chiama? Ti copre la propagazione. Lui, vabbè. Vabbè, bomboletta. Vabbè, allora. ora dove saranno, cazzo, guarda, c'ho la stazionaria stasera, sono le 5, non le ho mai viste così. E che cazzo è successo? Ora boh, sono sei te, cazzo, veramente i coglioni, c'è cazzo antenne. Oh, io vado a farmi la luce, ti sentiamo dopo. Invece faccio il suo grigio. Come? Faccio il suo grigio, c'è. Certo che ti sento, avanti. Sì, Santiago Rover Radio 5. No, e ora va bene, come lo senti tu? Cazzo! Ma no, qua l'ho passato con re, Anto. No, io lo sento bene. Forse perché è più vicino a te, Anto. Questa la parte tua qua non arriva. Se fosse stata una parte mia, mi sarebbe arrivato benissimo. Gappa gappa. Ah, farendi, che ti pare un mare, cazzo. Cioè, prima la comunità toccato le stazionarie erano alte. Boh. Sarà come ha piovuto. No, piovuto no. Sì, lo sudorimi. Altro bugaglia. Va bene, dai, vado giù a farmi... No, adesso il lupo grigio lo sento bene, c'è 9 qua. Tanto io non lo sento, sento basso. Cappa, lupo grigio ci sei. Ehi, Alimia, ciao! Ok, ti supera un po' il QRM, però... Già, già va bene, dai, adesso già ti sento bene, mi senti tu lì? Ok, Tu va a farmi la doccia, ci sentiamo dopo. Adesso l'ho sentito bene, lupo grigio, mi senti? Adesso sei 9:10. Adesso ti ascolto benissimo, perfetto. Solo che ti sei messo in posizione verso la mia zona. Ma verso la mia, però. Adesso a te è più basso, Anto. È più basso, sì. Vabbè, va, va a farmi la doccia, ci sentiamo. Anto, quanti va davanti? Si trova i travagli, boh. Ciao Nicola, 8:30 da questa parte. E qua dipende, adesso per esempio poco fa lo sentivo bassissimo, poi mi è salito a 9:10. E adesso facciamo un po' di travasi di profumi. Cioè non ne usi profumo, Marco? Come, non usi profumo? Non ne usi profumi. Parla lento, Luca, parla lento. Ho detto, non ne usi profumi tu. Sì, sì, io sono omosessuale, uso molti profumi, soprattutto femminili. E che femminili usi? No, vabbè, a parte gli scherzi, sì, sì. Insomma, dopo barba, deodorante intimo, quello che trovo. Ma io ho preso questo, aspetta, si chiama, questo lo può fare giù, si chiama l'equivalente, si chiama acqua di sale, fatta in Sardegna, ma sono andato buono. E cos'è, un dopo barba oppure altro? No, è un profumo, Marco, ed è palette. Non è equivalente, alla fine è meglio, cioè è meglio. Quasi quanto l'originale, dai. Tu pensa che l'originale di quello costa 100 euro. Allora, questo così, questo lasciamo così. Poi l'ho preso a Roma, mi davo la mia giusti, da uomo, certo. E quello l'ho pagato, non mi ricordo, forse 40, una quarantina di euro, da. Però scelgo di Mogano perché non... io mi ricordavo diverso, insomma non sono manco originali. Ah, io vado sempre sul classico, tipo denim, quelle cose molto commerciali, è più economica. Vabbè. Si fa quel che si può. Ci avevo un messaggio, vediamo di là. Conoscenza, eia. Francioso ha picchiato. Il caldo, comunque era ventilato, fine serata. Sono uscito in scooter, era abbastanza ventilato. Sono stato bene dopo tutto. Vabbè, macchina c'è caldo. Tu stai andando al mare, Lu? Sì, domenica al mare. Allora, ne stanno vendendo uno, come il tuo, abbastanza nuovo, 800 euro trattabili. Ah, tipo Liberty, Piaggio? Certo, come il tuo, Liberty, 125. 800 euro trattabili, abbastanza nuovo. Sì, quello... Certo, è un po' un comodo il Liberty, magari l'SH125 tira di più, però per la città Milo anche un cinquantino quattro tempi andrebbe bene, anche due tempi, quello che c'è me. Ma c'è il discorso, Marco, allora, il discorso del due tempi, va, del cinquantino, ti paghi un bel assicurazione, paghi di meno 125. Sì, è vero, perché i cinquantini hanno una fascia lì, è una fascia dove hanno più incidenti i piccini, capito? Quindi gli incidenti degli altri me li dovrei pagare io, no? Pagare di più. Sì, 125 è una scelta buona, ottima. E, modulazione come lui, KPO su 7009 con l'adattatore. Bella, bella, squillante, bella Marco, di lusso. Perfetta. Sono contento, dai. Così con due adattatori mi sono risolto un bel di problemi. Con un adattatore mi faccio 5 apparati. Posso usare finalmente MB+5 su tutti gli apparati, anche qua volendo, con l'altro adattatore. Che questo baracchino c'ha quella spina RG45 mi, e non li posso vedere. Come quella del telefono. Sì, sì, come gli HF, ma come i di banda V e U, capito? Amatoriali. Sì, se la pecunia gaggata si microfono, si spinotti, va. Poi c'è un problema che si deve aprire la. Per farti di nuovo la. Il capo. Deve aprire la. La crepatrice per farlo. E vabbè. No, ma non mi piace, io. Preferisco questi qua. Questi che abbiamo ora, a spinocchi a 4 te lo fai tu. Ci sta con un filo lì un casino, di voi due idee, ma che cazzo fai? No, per carità. Film già visto, eh. Vabbè. Ehi, vabbè, chi ha la crimpatrice non è un problema. Però vedi, ho messo l'adattatore 4 poli, se no gli devi usare il suo microfono di serie e boh. E alla fine ti stanchi, invece qua gli puoi mettere quello che vuoi. Tu miagola. Niente, non voglio miagolare. La gatta va. Due gatte, due femmine. Praticamente dormono sempre con me. Ho detto, se avessi tante donne, quante gatte c'ho nel letto? Che bello. È una. Ricordati sempre delle donne, una è troppa, due sono tante, ricordatelo sempre. No, io sapevo, una è poca, due sono troppe, capito? No, una è troppa, due sono tante. Chi era l'altro? Ho sentito segnale intorno al 9, ha fatto un verso. Avanti. Prova, test. Così sono lontano tutto il braccio. Ah, vedo che sale. Lo smitter sale. Volo così. Oh, bella la radio Marco, beh, cioè io te lo dico, mi esci bene o si esci male. Bella, sì. Quel microfono merita. Merita, amore, merita. Merita, sono state seconde che stamattina sono uscito di fretta che mi sono fatto il letto. Siamo proporzioni di nobili, non lo faccio. Bene Luca, adesso mi occupo un po' di mamma, che purtroppo è stata poco bene, un po' allettata, diciamo, dai, quasi allettata. E anche in mamma, sempre cuccata, poi già si alza, ma sta sempre cuccata, diciamo la maggior parte delle ore si fa cuccata. Sta sempre a letto, mangia, poi mamma è diabetica, casino, eh. E già vai tranquillo, non ti preoccupare Marco. C'entra qualcuno, bene, ce lo prendo, le stacco tutto e mi guardo il televisore, già non c'è problema. Vai tranquillo. Sì, prima che entrassi c'era una propagazione tutto sul Italia, Bari, Polignano, Taranto, a segnalonimi. E adesso come inizia il caldo inizia a entrare. Che male se su 45 c'è ancora propagazione sicuramente. Sì, anche in banda laterale sulla 3+5 che non aggiungare, è tanto per salutarmi. 5-9, 5-8, a me arrivavano non più di 9, ma a Claudio gli arrivavano 9+20, a Roberto lo stesso, segnalonimi da loro, da me un po' meno, però con i 10 watt dell'apparato hanno risposto subito. Sì, infatti io ci ho messo il 747, poi nel caso se fa bisogno lo attacco, sì no. Ma guarda, ti dico un'altra cosa, il baracchino non è più nessuno Marco, vabbè io sono andato dopo le 8, questi pomeriggio non posso perché non ne ho, l'ho staccato alla... e niente, posso solo modulare così e basta, perché se allora l'antenna se fosse stata su sarebbe stata un'altra cosa, sarei stato più tranquillo, purtroppo era in un punto che a me non piaceva e allora sono stato costretto a staccarla. Sì, intanto Luca, questa chicchia di antenna che ho io, questa Energy, che non gli avrei dato più di 2-3 anni di vita, 8 anni ha compiuto, cioè sono passati 8 anni, è perfetta, tutti i radiali, dritta, non l'avrei mai detto, Hai visto? Cioè ha resistito al vento, a venti anche un po', non dico da burrasca, ma per dire, l'avevamo bella stagnata però, abbiamo stagnato tutto lo stagnabile, acqua non entra. Quando piove sì, magari sale 1,2 così, 1,3 sui canali alti, però di più non va. E guarda Marco, l'armato va lo stesso, io ho tanti anni, Però siccome devo fare sempre quel lavoro, cambiare il palo, cambiare anche le staffe, solo che vabbè, le staffe ci ho dato una passata di coso, di zingato, bomboletta. E niente, e poi ha fatto prima l'antenna a rompersi, è stata sistemata, per il momento è a posto, stazionale non ne ho, tu pensi, ce le ho più alte qua che nei canali alti, proprio canale 45 c'è 1,1, se attacco 1,2 salgono, invece qua se attacco 1,3 mi pare. Ah, c'hai il centrobanda un po' più in alto, ecco. Dammi il contrario, il centrobanda è un po' verso il basso, però, grosso modo, vabbè, non mi posso lamentare, dai. Va bello, stacco. Un saluto a tutti gli ascoltoni, ci sentiamo. Ciao, buona serata. Sì, c'è Trantunio, sono acceso troppo, dai. Ciao Marco, alla prossima. Attento Luca, ci sei? Luca? Ci sei Luca? Ho detto, già la fatta con gli ubbando. E vuoi far male, devo lavorare con gli ubbando, se no fai fiago quando entra a letto. Se non devi travagliare, io quando devo andare a travagliare non me ne fai di doccia. La fatti direttamente a finiglietta. Che schifo. Ma perché? Cosa devi fare? Entri a letto con un fiago gatto di grosso moscio, attennante. Ma se non devo travagliare mi brutto il dolore, cosa entra? Cosa c'entra? Però uno quando entra nel letto ci vuole l'igiene, cioè. Ma stai scherzando tu, che schifo. Gli girava quando con la voce alla base, la voce all'altra. Dai. Sai cosa se ti grazie appena, mamma mia! Già subitissimo, si domani. Oh vabbè che ognuno abbia un sogno, però. Che schifo. Vabbè, cosa ci vuoi fare? È troppo. È un casino. Vabbè, da domani non fa nulla. Stamattina mattina andare a prendere l'insulina a mamma. Presto, così siamo uno dei primi, vabbè tanto noi non c'è molta gente, però ci vado presto, così fatto vado come ben subito. E poi a fare la spesa dobbiamo andare domani sera, con Maria. E nulla, e poi basta, poi fine settimana andiamo, adesso vediamo se usciamo venerdì, e poi sabato andiamo di là. Comunque sabato inizia da mattina di là, Già ma stavo accennando Gigino, stavo dicendo ok da speriamo bene di lavorare, cazzo, no visto non mi date le dinamme, cazzo, sono associato, so volo. E chi? Sempre se pare mio. E beh? Non lavoro, non mi ha soldi. Io non state facendo niente. Ti hai travagliato o ti hai dato un'idea? Ma cosa ho un'idea? A fine settimana. Ti dà un'idea di fine settimana, ti dà. Cosa ne so? Non lo so, dovresti prendere un'altra via. Non lo so. Fare altro. Cosa vuoi che ti dica? siamo nella stessa barca. Per il momento pure io sto toccando il sole, non devo toccare. Ma cosa cazzo vuoi ti dica io? Tu devi fare un travaglio, va. Devi cercare il lavoro. E vabbè, già c'è roba da sistemare, comunque va, il soldino già rientra. Beh, lo so, un casino, dovete cosa è il problema? Il problema è che l'età avanza, che cazzo di vita più va. Ma vedo, già ti stanno cavando però. Perché non ci posso più andare, perché con la scena non ce la faccio più. Ho già da fare tutti i figuri. Ma io non voglio andare, a me mi piace da voglia in cantina, ma non ce la faccio anche tu. La schiena mia ormai è andata. Ma il cazzo travaglio bello in zero. Diciamo che riesco a fare qualche giornata, ma niente di più. Niente di più. Una volta ho invitato un amico, un mese. Ci viene un paio di giorni a lavorare. Cazzo, più di un mese vero. Alla fine il cazzo non si sveglia. Ma per fare anche per mangiare. Lo so. E sai cos'è anche il problema di mia madre, capito? Che lì ha delle visite da fare, chi ve la porta? È un casino, anche per quello. E vabbè, poi già me lo organizzerò, Adesso vediamo un po' il prossimo anno. Se riesco a trovare a fare stagione da qualche parte. Fandemi la forza, la mappiati su via. Ma come se la già è balle se. Cazzo, non sa più. E vai non ammara. A te ti conviene fare così tanto, visto che il lavoro vuoto scarseggia. Come adesso, ora come ora. Ci fa le stagioni che fai tanto. Te ne vai fuori, la va piatti, su via. Quando tentore se lo sai fare, tagliare erba, sistemare, cambiare la lampadina, cose così, i rubinetti se li sai cambiare, scaldabagni, tutto si vedava. Si vedava, c'era un lavandino, cioè cose così, dai, in bianca, cercatelo. Non so fare che non sono a Olbia, se no lavoro l'avrei già trovato. Te lo fai, a Olbia la stagione tu, visto che da lui sta scarseggiando. E come faccio, cazzo, un casino, non a dirlo, a farlo, è un casino, che non fai di nada, non ti puoi manco muovere assai. E allora chi ti ha detto cittadinanza? Ma voi ti dico, io ho voluto travagliare, pure di là in busciacca. Non si può tirare davanti così. Speriamo di lavorare domani. Vabbè, non so. Non so che dirti. Io mi sono rotto il coglione di stare così a pezzo a pezzo. Ah, cazzo, sono un pellegrino. L'età inizia ad avanzare. Cioè, stai crescendo e poi che non ci piglia più nessuno a travagliarmi. Già lo so. Ma io voglio lavorare, ma solo cazzo che lavoro. Pare che ti diano le bestie di mezza. E ti guadagni comunque. Cappa. Ora speriamo cazzo di fare quest'altro passo e via. E poi. Come a proposito, come si chiama quell'affare dove si può collegare uno sul computer? Hai fatto tutto l'altro giorno. Ho capito, come si chiama quell'affare? Quel programma. Ah, quello che prende da PC a PC. Ehi. Team Viver. Scrivilo su WhatsApp. Si chiama Team Viver. Lo devo installare, lo devo perché. Almeno. Poi ci vuole quel codice, lo basi, non so più cosa e va così. Esatto. Ok. Dobbiamo riuscire a installare questo cazzo della cosa. Eccoti. Sti cazzo di corsi, tiramento di coglione, cazzo. A me un cazzo vado mi propongo perché. Non si può tirare davanti così, a me mi serve a travagliarmi. Arturo, dati una mossa. per darsi una mossa, altrimenti un casino. Non fa, Gede, non fa. Te metto il coso qua, ecco qua. Ci deve darsi una mossa, se no è un casino. Casino grande grande. Lo so. Non puoi venire un cazzo a passi. Cioè, oggi compra questo, oggi compra l'altro. Cazzo, un litro d'osso, andiamo a fare che cazzo che vuole un leasing. Un litro d'osso di per fare battatini. Ah, come cavolo si fa andare avanti così? Cioè? Non hai visto quello che va per il gigante goccia? No. Guarda 5 euro, Cazzo, dai pulla. Ehi, non è ancora comparato. Ma li dato io. Questo va a fare un patato briscio. No, no, Maria lo usa. Mamma non ne usa. E come te lo godi il patato? Olio extravergine usa. Ah, troppo pesante. Anche no, è consigliato l'olio extravergine. Pesante è l'olio di semi, per carità. Vabbè, comunque... Lo zoo da lì, lo zoo di coso è diventato quasi come te lo zoo da lì, va, devi intendere. E alla fine sì, un casino è alto. È un casino. Pure c'è la guerra. A te immaginate, non costava nulla che sotto. Niente, lo so cosa vuol dire. Niente. Cioè, non c'aveva un grande costo. Cazzo roba la macchina. Ma va, cazzo, guarda 5 euro. Cosa ci vuoi fare? Noi già non li compariamo, ma non li tratta. No. La cosa di quello giù è stravergine. Se non fate lo battato. Sì, vabbè, ma non è che mi costa abbastanza. Roba vista a bocca. Forse chi lo tratta, non lo so, non sono sicuro. Forse quello lì lo usa. Cazzo, che vuole fare i giarroni? Va. Che? Che schifo. E guarda l'impressione che risolvi, per carità, no? Comunque è così, cazzo, costano parecchi soldi, lo sai. No, non so cosa che senso. Se mai l'ho vista di questi 2,50, 2,80. Ah. Cazzo, è quello lì, troppo. E così è. Che strano. Poi cosa dici che dobbiamo andare al paese, io ho ingaggiato per la guerra, compreso. Mi si accusa e ti si offende di là. Ecco, attendo un ventilatore e metto un gaggio in ovvio. Cazzo della Mondezza. Che cosa? Dubbia è della Mondezza di sud. Ma se cazzo che ti dica. Lì invece la verità è. Per chi lo sa? Cioè che qua ce n'è poco. A Tubari, proprio nel nulla. Veramente cazzo, non sei boh, cazzo chi ti cade il virgino battato, cazzo, non di... Oh, cazzo, oggi ho visto una cosa così pucacciona, Luca, la strada di chi c'è un virgino lo battato, oi. Allora quando ti rapporto lo battato, tu metti una di chi si cazzo lì, tipo le scatole che usiamo noi per mettere nei bocconi di imbarrazzi, chi mi dovete te la posso? Ho battato un briscio, magna! E non fai? E io non te lo posso dire. Ma per carità. Cazzo, già te lo dico a quattro occhi, te lo dico chi è. A Marco non vanno a mangiare, tu caccione. Sì, poi ci vieni magno io. No, ma già mi piace. Ma anche a me piace, ma non lo posso mangiare più di tanto. Così fate di venire in Maradimi, con questi cazzo di metodi strani. Ma c'è una pizzeria? No, è un bar. Ma fatta tu brisso. Ehi, se la posso diventare una cascetta della porco. Vai, scola, magna! Tutti rimettiamo la carta sotto, un coso, come si dice? Come facciamo tutti? Lo scotte, se va, a cucchiali da luzzo, eccetera, eccetera. E da piedi la posso entrare la cascetta. Che senso con i ferri? E dove ci mette la roba, dai? La cassetta è quella in cartone, lì. Sì, ho capito, Pucci. Un caccione, Via. E chi è? Ho rotto a tutto. La cassetta è in disabiti. E ti ho compreso così, Ehi. Ah, ti nesci i disabiti. Che diavolo? Comunque lui, questa cosa, non è il pucaccione, guarda la cuzzina, il cazzo che sta cantando bombaggiata. Di bei voti a Nero, Gigazzi Gianni Sarroni, Gaddarani, ecco lo sai, si gratta è burro guro. Facevo di guro, allora. Che sei cuglia. La cazzo di luci isto. È un tombare. Baramobile. A Robasso. Un barato, ma questa è scende. A Robasso. A voglia. Allora ti dille. È 9 qua. È 9 pure da me. Un bacione, continuate, ciao. Grazie di vecchi si gussi, vengono di vecchi. E poi avete un bel ingaggio di vostra frutta a bere io a te. Stai a fare il tempo con la gente idiota. Trappa. Che ti fai gusci o quello, cioè sono posti che bisogna evitare, a di chi entra là, là non ti si chiama chi si fa delle controlle, questa volta è dove bigia e la NAS e non cosa del carabinieri che fa delle controlle i NAS, non la NAS, i NAS e i NAS un bel gente strana c'è io sono sicuro che a casa mia mangio tranquillo, sano e mani puliti. Ah vabbè, ci sono anche quelli molto puliti, non ti credere che ci sono gente anche pulita. Sì, e beh certo. Non sono tutti bucaccioni, no? Lo so. Io vedo che la cosa comunque non ti fidi da Costantino. L'altro giorno ti volevo dare il bicchiere in coso, non avevi paura. Certo. Ti volevo dare il bicchiere in vetro. No, non me puoi dare. Cosa pensi, mangia via di guru? No, meglio... No. Però se avevo un bicchiere in plastica, bello. No, lo sai, magari, chi su capito prima, che tu vuoi partite, tu, meglio evitare queste cose, non si sa mai. Vedi, avrai ragione, è come regola. Come regola vorrebbero disinfettarsi? Io bevo da plata, quelli di plastica. E così fai? Molto poco, tu stai bruttando. No, sto appena entrando la fretta. Ero lì a cosa, a Canica. C'è il circolo di lì, sono bevuto una birra e sono entrato. Che cazzo a Canica, a piedi? Sì, c'è il circolo lì, come si chiama? C'ha un... grande, solo c'è l'impianto per il karaoke, ma non lo stavo già neanche usando, figurati tu. Non lo sapevo. All'uscita del coso, prima di andare da Falcone, c'è quel circolo, ce l'hai presente? No, c'è solo che ce l'ho un bar lì. Non è trattende? Ah, non è un bar, un circolo, ti sto dicendo, è un circolo, non un bar. Qualche giorno passa dove siamo noi? Mica sono andato da solo, sono andato, mi ha accompagnato Giovanni di lì. Qualche giorno ci passo da voi, non c'è problema, Anto. Vedete, per Giovanna quando capita che lo dico. D'accordo, non c'è problema per quello. Capaloggi. E se mi reagemmo? Ehi, è accidenti, perché problemi c'è? Basta che mi accompagnino a voi. E qualche giorno già te lo dico, dai. Va bene, non c'è problema. Quando vuoi dimmelo. Già so che l'occhi. Se vuoi mi accanto la sarisa. Sì, sta destra dove vuoi, c'è... abbastanza grande quel circolo, cazzo. C'è un coso per, come si chiama? Quello per tirare a pugni, non tira a pugni, c'è di lì. Ma come sto facendo karaoke? Stiamo rompendo il coglione. Poi c'è anche il mixer per karaoke, i microfoni, però evidentemente hanno computer, evidentemente non l'ho mai usato. Ma che ci passi, ti metti d'accordo, magari puoi fare le serate, cosa ne so io, non costa niente. Appena che c'ho i brani, sì. Vabbè, beh, c'è i brani, certo, il mix già c'è, non ti preoccupare. Metti d'accordo con lei e così ti fare un paio di due o tre serate, quello che sono, cosa ne ha fatti, basta che ti incassa. Non c'è problema per quello, tu dirà cosa. Ma sicuramente lì lo fai a fine settimana. Eh beh, certo, non puoi fare mica lì a martedì, no? Se devo fare, fare fine quando sei la domenica. Hai capito? Sabato. Oh, sabato, domenica, quello che è. Come fanno i cosi, i muratori, si imbriaca del sabato e la domenica, poi i lunedì mattina sono al zilli. E ma lì si vede dei mossemi. Capitardilla. E perché non lo so che bevono, di da me. Chi sono il giuccetto che l'ha attaccato dove? E io sono il giuccetto, anche la canna c'ha la canna agganciata. Andiamo, andiamo. Casino, boiaia. Sotto lo mettono nel libero. Cappa, ah, va di cazzo, non ti impari, ti imbriaghiamo, beh. Cazzo, cantiamo le canzoni al massimo. Cantiamo tutti in saldo. Cantiamo. Tutto a palla, Anto. Ecco cosa ti canti, Anto. Casa serena. Cosa è? Ho detto, cantiamo Casa Serena. E facciamo il primo che entra lì a dormire. A buon guio una canzone fredda, perdere l'amore. Quella lì cosa metti di canzone, mette, sono meglio dei cugini di campagna, come si chiamano? Quelli, i collage. I cugini di Castagna, di campagna. Andavo a piedi veri per la strada. A pinnandi. Non sapeva fa. Quando la prendeva tutte le ore. Andiamo, andiamo, cattivo. Beh, come sto scendo adesso di tutto microfonia, quello che è. Adesso va bene, ho cambiato capo, ho cambiato alimentatore. Perché sei buon prende cazzo. Ma è più forte di segnale, lo sai. Sto dicendo, ho cambiato alimentatore e anche microfono, come si chiama? Vabbè, tutto. Già. L'LC 200. Era basso. L'LC 58 era verde, come si chiama? Addirittura il piede esterno era inciurato. Ho dovuto prendere lo sbloccante, pulirlo bene e poi ripiazzarlo. Figurati tu. E sono con appena una ventina di watt, ne ho di più. 20 watt e tonno di tonno sono. Figurati. Ieri fischiava, adesso non fischia niente, sono a marettone. Comunque il capo grosso è un altro pianeta. Mi pare che me lo metto in deposito io. Anto, arriva forte il pompugno, cazzo, l'uomo è forte. No, ha aumentato, va. Beh, cambiato il capo, cambiando il resto, già lo credo che è cambiato tutto. Il capo l'ho cambiato, era verde, il piede, figurati. C'è Giuseppe stasera qui, me, Giuseppe Leoncino. E un ciabatto, l'ho trovato grande, perché gli ho detto, mamma mia. Io ho detto, non ti preoccupare. Ma, fregate, dammi un pappagallo. Poter smollare diretto il coso in modo da essere tranquillo. Ho smollato il piede, ho tolto uno e ci ho messo l'altro. Dopodiché ho preso e gli ho agganciato l'altro alimentatore da 25 A, quello cinese, quello che ti dico, che c'era la ventola che faceva casino. Gli ho agganciato quello, è perfetto, non si scende un tubo. ma che mi ha dato male. E sono con 30 watt, tondi tondi sono. Figurati. E anche non la giunce. Sono una meraviglia, funziona. Ah, cosa cazzo, io ho chiamato una persona e mi ha detto guarda la cosa è da 30 ampere, ce l'ho io. Mi ha detto la cosa è ben precisa, mi ha detto no, non cambia un granché, mi ha detto solo che è feuda, vi dici buh, tutto lì il discorso. No, io ce l'ho infilato dentro la stazione di saldante di un che c'avevo qua a casa, figurati. Fatto in metallo con le manecce eccetera, c'è un filato vento e funziona bene, è un buon boe come alimentatore, è tranquillo, non ha né problema di vento, niente, non si sente nulla, è veramente di lusso. Quelle di lusso sì, vanno bene cazzo, io ho tanto tempo e ne ho uno qua e uno sopra il naggio, se funzionano i bea vero e se è cinese e già funziona, ti dico, aspetta che vado in bagno e riprenderò. Andiamo, andiamo! Allora, andiamo bene, andiamo ora. Cosa ride? Dove andare sabato? Cosa devi fare sabato? Devi andare subito. E allora, i soldi che non ho. Ah, eh? Quello lo dico a me, ma quando ha 15 a me ce ne vuole, figurati, cioè prima scrivono i 27, poi scrivono, non sono neanche loro, poi 15 di cosa, di giugno, boh, si vede. Ma non mi fa un piacere a me. Aspetta un attimo. Ciu, sono stato un attimo, va bene? Sì. Ok. Bene, così già va bene. Così è perfetto. Si conferma. Eppure se io trovo 15 metri di 213 me li metto. Ce li ho io, se ne vuoi 15 metri di 213. La partire, ma non ce li ho. Perché diciamo che me lo metto in deposito, che secondo me compa di più se metti quello. E a casa cos'hai? L'H155. È buono anche quello. Ma quello che ho io è 213 doppia calza. Se lo trovo 213 me lo biglio, lo provo. Quello massiccio, eh. Il DL si va a debbare la mazza. Tanto ne vuoi un po'. Troppo. Boh, mi sa che glielo metto grosso, perché tanto c'è il buco largo pure là. E ci passa giusto, vi ha detto. Che è un buco per... ma sono convinto che cambia da giorno alla notte. Certo, ora ne di più altro, altra musica. Perché come segnale sono convinto che scomba forte. Rende, rende, ha voglia. E qua ce l'ho già un bel po' di anni, stavamo lavorando Claudio, ma guarda. Rende, rende, ha voglia. Ed è ancora buono. E ne ha preso temperi. Siamo senza dentro il corrugato, guai. Sarebbe stato ancora bello, nuovo, nuovo. A 3 euro e 50 euro M. Lo so, lo so. Mi ha detto non ho neanche aumentato. E tu col c'è il ciucavo? 213 doppia calza. Non hai i soldi. Certo, intorno ai 3,50 euro. Sei giovane. Ciao Carlo. Ciao Luca, ciao Antonio. Ciao Carlo, buonasera. Ora in chiacchiera siete, io ho ripreso adesso perché prima ero andato a cenare, finita la propagazione mi sa. Oh, da me stai piccando, da voi? Never il gaggio, Ce ne ha fatto, Ammazza, oggi l'ha ventilato però, la verità. era ventilato. Diciamo che ancora è sopportabile, finché rimane così è sopportabile, però se ti siedi in macchina che era sotto il sole, oiaia. In macchina lo senti di più. Poi se è sotto il sole, mamma mia. Mi sa che ce l'ha anticipato questo caldo. L'estate, Carlo. Che l'estate vera inizia il 21 giugno. Sì, anzi 16 di giugno faccio. Aspetta, 25 anni di partenza, 25, 24. E gli anni passano, Luca, io neanche me lo ricordo, non ho mai fatto quel calcolo. Se passano gli anni, io l'ho preso nel 99, l'avevo preso quando avevo 24 anni, perché prima ero negativo, nel senso che tanto si divertono, non la prendo, poi la vita poi mi sono messo. Che bello, quel giorno non bello di più, giorno guarda fantastico. Guarda, io ti dico subito, faccio i conti subito, ho preso la patente che avevo 18 anni, io 18 anni li compio a gennaio, no? Quindi mi ricordo che era primavera, forse maggio, era diciamo bel tempo, mi ricordo che, non mi ricordo il mese, ma era quando avevo 18 anni, adesso ne ho 58, fatti rugonto. E 40 anni? Tondi tondi, infatti facile facile il conto, non l'avevo mai fatto, però adesso me l'hai fatto venire in testa tu e presto fatto, 40 tondi tondi. La prima opera comunque a marzo, 21 marzo, mi pare, 21. Le stagioni sono sempre al 21esimo giorno, primavera, l'estate al 21 giugno e così via. L'autunno? L'autunno dovrebbe iniziare il 21 di settembre. Sì, ma secondo me sarà la tira quest'anno. Dicono che è un caldo, che fa caldo, e questo caldo c'era nel 1981, mi pare. Ho visto la situazione nel resto d'Italia, c'è il Po in secca che non si vedeva non so da quanti anni così, addirittura stanno affiorando carcasse di vecchie navi, un sacco di roba, proprio perché il livello è talmente basso che non erano roba di 30 anni che non si vedeva così. Sì sì, cioè vabbè, c'è anche pomponi, avanti pomponi, si è fuorato dalla gadria, avanti anche tu, chi sei? Infatti è un caldo anomalo quello che sta facendo. Voi Antu, con il freddo lavorate di più. Io ho grigio. Sì, vabbè. Ah, comunque già lavorate anche adesso di meno, vabbè. E non le finiranno le bombole nelle cucine. Il problema è che prima le abbiamo fatte, va a finirle, voglia. Già cucinano, voglia. Nei ristoranti mi sa che hanno la cucina a gas, così. E ne abbiamo pochi. Casino. Vatica. Speriamo che trovino altri paesi che ci forniscano di gas e di altro combustibile, se no questo succede quando tu dipendi completamente da un solo stato, poi quello stato va in malora e ce l'hanno in culo tante persone. Se invece l'Italia avesse comprato dall'Algeria, dai paesi del Maghreb, dal Marocco e da questo e da quell'altro, capito? Avremmo avuto più fonti, capito? Invece niente. E poi dico anche una cosa, qualche anno fa, questo era uscito su tutti i giornali e su giornali anche a caratura nazionale, sul Corriere della Sera, i Moratti, che sono i proprietari della Saras in Sardegna, avevano fatto dei rilevamenti e pare che nella zona di Arborea dal terreno fuoriuscisse del gas naturale. e si sono opposti quei movimenti dei verdi e non se ne è fatto niente, se no loro erano pronti ad investire per estrarre gas naturale. Quindi noi addirittura lo avremo in Sardegna e il quantitativo che c'è pare che soddisfi tutto il fabbisogno dell'isola sarda e poi ce ne avanza a darne altre due regioni, quindi ha voglia di gas, basta cercarlo e non dobbiamo andare a comprarlo chissà dove. Beh certo. Ma il problema è che non magna magna. Quello è il problema. Addirittura al largo delle coste, diciamo, di Alghero, anche lì pare che ci siano delle risorse anche abbastanza grosse di gas naturale, però non si sa per quale motivo i diritti di estrazione se li ha presi l'Algeria, quindi a largo delle coste di Alghero, dove il mare lì è mare italiano, i diritti di estrazione ce li ha l'Algeria e non l'Italia, questo c'era sui giornali la settimana scorsa. Sì, il territorio di diritti di estrazione è quella giù, il verde, quando vanno per palle, li hanno resi tutti canti, boh, è finito, è un difetto a cielo. I verdi si erano opposti anche per il nucleare, noi dovevamo fare qualche centrale nucleare per avere l'energia, non hanno voluto, però le centrali nucleari ci sono in Spagna, ci sono in Francia, siamo circondati, ci sono in Austria, ci sono in Germania, ci sono ovunque, quindi se dovesse succedere qualcosa le radiazioni arrivano sin da noi tranquillamente, quindi perché si sono opposti quello non l'ho mai capito. Ma questi che vanno per palle, non è che cazzo, pure la stessa giustizia c'è una massa di quasi, no? E quindi le buone malette si rimborsi via. Io devo fare la ricerca al computer, rimango in ascolto. Via Luca, stasera mi sono sentito con Gianni che ha ritirato la radio e praticamente l'ha lasciata a me. Prendilo comunque quel consiglio che ti hanno dato e segui su, è bravo per il padre. E allora magari ci si può portare via, te lo fa bene. Che Gianni? Chi Gianni? Gianni doppio room. Ah, ho capito, la Saturnecco. Sì, esatto. A posto? No, ancora è da mettere a posto. Oggi è bello Saturnecco, io posto non ne ho. E io lo stesso, però magari riuscirò a farlo, dai. Pensandoci bene, se mi metto, capito, però prima voglio mettere a posto quella radio, perché Gianni ha detto che lui non ne ha più voglia, ne ha tante altre di radio, e lì ci ha speso già qualche soldo per prendere i finali, eccetera, e chi gliela stava vedendo ha detto che non si può fare più di altro, per cui niente, mi metto nelle mani nei consigli di Claudio e Massimiliano, che mi hanno consigliato di portarla da un loro amico, e se riesce a metterla a posto magari è giusto renderla funzionante, dai, perché è un peccato, a vederla è nuova questa radio. Immagino. È veramente trattata bene, capito? Cioè se tu la vedi sembra che stia uscendo dalla scatola. Io ce l'ho avuto anche io un apparecchio del genere. A me non piace molto. E diciamo che insomma si fa rispettare, però dai, come radio se funziona bene già è ottima. Troppo grande. Sì, quello senza dubbio. Io ho avuto per una settimana circa quella di Antonello che me l'aveva prestata a trovarla e caspittina, quella di Antonello funziona bene, capito? C'ha l'eco, insomma, se l'hai avuta poi già lo sai com'è Antonello, non te la devo descrivere io, però quella di Antonello funziona bene, evidentemente gliel'hanno messa a posto bene, capito? No, l'ha comprata già così. Sicuramente, ma questa piano piano se riesco la metto a posto. Sì. sì, bello che ti hanno detto, vorrei che ti trappola a posto. Sì, sì, adesso aspetto che mi diano il contatto di questo e quando va bene, se mi dice di portarglieli, io adesso questa persona non so se lo fa di professione, se ha un laboratorio per cui è sempre aperto e quando avrò il contatto lo chiamo e insomma gliela porto, poi non gli metto neanche fretta, quando la giusta, capito? Ci puoi piegare una settimana, un mese, non ne ho fretta. Quando mi rio ho già sentito quello che non mi ha detto. Dite che è bravo. Così ho sentito, così hanno detto, io non lo conosco, però insomma mi fido delle persone più esperte di me, dai, e delle conoscenze che hanno, e ci mancherebbe. Adesso vediamo. Minchia, stasera c'era un sacco di propagazione, si sentiva tutto il sud Italia, Bari, Taranto, altre località del sud, sul 45 lo stesso, si sentiva anche la Sicilia, insomma, un bel po' di roba. Ma che ora? Stasera verso... eravamo in diversi, mi è entrato anche Giulio, ho sentito, c'era Natalino, c'era Gianni in macchina, c'era Franco, è entrato Marco, eravamo un bel po' stasera, poi è entrato un attimo Claudio, Roberto, forse ne sto dimenticando qualcuno, Antonello, forse era entrato prima, stasera ci ho passato un po' di tempo in radio, adesso ho provato a accendere, perché praticamente mi sono messo una di quelle prese smart, no? Con l'applicazione dal telefonino è attacco corrente, perché io ho l'alimentatore in alto e tutte le volte mi toccava arrampicarmi, allora ho messo una di queste prese smart da 16 ampere, ho collegato lì l'alimentatore, spengo la radio, ho capito, e poi per spegnere l'alimentatore anziché salire su arrampicarmi entro col telefonino e lo spengo premendo un pulsante. Ah, sì, ho capito, sono pure io. E tu li hai sentiti anche stasera? Qualcosa ho sentito, uno di città di Piscita ha detto ma cos'è questa cosa? Sì, ho sentito Trani, poi il paese, non mi ricordo dove era nato Domenico Modugno, non mi ricordo, qualcosa a mare, però non mi ricordo. Bari, Taranto, poi ho sentito Trapani, capito, verso la Sicilia, però poi è calata di colpo. Quella è roba più presto sicuramente, perché io pure qui è stato più tardi, capito? Alle 4:10 stavo piazzando. Sì, era intorno alle 6:30, 7, dai, che eravamo in radio, a quell'ora lì è entrato qualcuno, ma sino alle 7:30 c'era ancora propagazione. Tra un po' se andrà sempre meglio. Adesso tutta l'estate già ne faranno le giornate che si apre la propagazione. E a voglia. C'è qualche giorno fa che avevo la radio quassù di Antonello, ho messo banda laterale, no, ho provato a fare chiamata, mi ha risposto uno dal Brasile, poi siamo passati su un'altra frequenza, ci siamo scambiati così le coordinate, Roberto si chiamava questo, cavolo, se mi sentiva Santiago 8, mi ha detto Santiago 8 Radio 4, io lo stesso, lui arrivava con picchi anche di 9 pure, ma sembrava dietro l'angolo, cioè esce bene quella di Antonello, sì. A voglia. Mi sa che se l'è venduta, Ha fatto bene. Perché tante radio non è che le puoi tenere, no? Capito? Già. Domani vedo se Claudio mi manda quel contatto là o Massimiliano e poi quando è possibile gliela porto. Ma si può usare questa radio, bro. Perché è un peccato lasciarla così, dai. E coso, Gianni era un po'... sembrava un po' demoralizzato, non lo so, eccetera. Ho detto dai, vabbè, te la prendo io, poi se riesco a aggiustarla bene, se no pazienza. Non lo so, dopo qua non ce n'è che li sanno fare. Peccato che non ci sia un laboratorio, se no qualche lavoretto ogni tanto ce l'avrebbe fatto di quel genere. Però l'importante è che ci sia anche fuori, non è un problema andare a portargliela. Tanto io mi guarda, almeno una volta a settimana vado a Bonorva, quindi non mi costa niente, allungo un pochettino, passo lì e gliela posso portare. E allora vado a fare così a Moro, lei dice che... Capito, vicino Macomer, da quelle parti lì. Papà. Oh, io ti saluto, cazzo, mi sto addormentando. Ci sentiamo domani, dai, se coincide da deposito. Ok. Intanto non ti preoccupare, mi ha fatto piacere risentirti, dai, ero qualche giorno che non ti avevo sentito più. Ce la risentiamo a domani, va bene, ora fare un po' di ascolto qua, poi non lo so se Luca ne ha voglia dopo, magari ci sentiamo dopo, vediamo se entra qualcuno, anch'io sto facendo qualcosina qua. Ciao, buonanotte, buon riposo, a domani. Ciao, buonanotte, buonanotte a tutti gli ascoltatori, ciao. Lei ci senti? Italia, stazione 1, prima chiama, cambio. Buona tarde, Portugal, qui è stazione primera, Alfarima. Guarda la parola Antonio, è dalla Sardegna, Italia, che ti chiama e ti manderia 7351 per la tua e la famiglia. Adelante, amico. Okay. Il mio paese è la isola di Sardegna, Italia. Ok, non hai ascoltato, Italia, Isla de Sardegna. Isla de Sardegna, Italia. Aspetta un attimo. Mi unisco, aspetta. Ok. Hola amigo, mi scucci? Ok, sono del Portogallo, qui la stazione primera di Falima. Però via Antonio, Isla de Sardegna, che ti manderia 7351 per te e tutto ti era familiare. Ok, primero Alfa Lima, Antonio, por aquí, 31, Hotel Mike Sierra, 31, Hotel Mike Sierra, mi nombre Humberto. Ok, Humberto, a tu la señorita está 9, le señale radio muy fuerte 5.